America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We gotta come out here with a swag, man, and play cocky, man, for four quarters, man. Hey, they want what we got now. They can't take it from us. Let's we give it to them. La febbre del football americano ha contagiato gli Stati Uniti. Ieri sera si sono giocate le due finali dei due grandi tornei nazionali, l'American Football Conference da una parte, il National Football Conference dall'altra. I due vincitori, rispettivamente Green Bay Packers per la National Football Conference e Pittsburgh Steelers per l'American Football Conference, si scontreranno nel Super Bowl, nella finalissima che travolge sempre l'America, che si giocherà in Texas nello stadio dei Dallas Cowboys. Ieri sera le due finali di categoria. Ciascun torneo ha 16 squadre, quindi in tutto ci sono 32 squadre divise in base regionale, cioè per esempio i New York Giants sono in uno dei tornei mentre i Jets sono nell'altro. Ciascun torneo ha una rappresentanza del nord, del sud, dell'est e dell'ovest del paese, in modo che c'è una rappresentazione completa. Ieri sera c'è stata la finale fra i Pittsburgh Steelers e i Jets hanno perso, purtroppo devo dire, sono un tifoso dei Jets e questo è un gioco che appassiona, bisogna conoscerlo, però è un gioco straordinario, pieno di strategie e di tecniche molto interessanti. Woody Johnson, il proprietario dei Jets, l'ereditiere della grande azienda Johnson & Johnson, non sarà ovviamente soddisfatto, è un decennio che prova ad arrivare in finale e non ci riesce. Dall'altra parte i Chicago Bears, tradizionalmente una delle grandi squadre americane, ha perso invece contro i Green Bay Packers, squadra fortissima appunto di Green Bay nel Wisconsin. Green Bay è una cittadina di appena 100.000 abitanti e questa città rappresenta la comunità più piccola delle 32 squadre che si scontrano a livello nazionale. Il Wisconsin è a nord dell'Illinois, sono stati confinanti e dunque si è trattato di un vero e proprio derby. La finale dunque vedrà schierato da una parte il Midwest con i Green Bay Packers e dall'altra il Nord-Est con i Pittsburgh Steelers. And so now, to help fulfill this new mission, I'm assembling a new group of business leaders and outside advisors. And I am so proud and pleased that Jeff has agreed to chair this panel, my council on jobs and competitiveness, because we think GE has something to teach businesses all across America. Barack Obama si prepara al discorso sullo Stato dell'Unione, sarà un discorso con un messaggio centrista, con un messaggio bipartisan, un messaggio di collaborazione, ma il Presidente proporrà alcune nuove spese che i repubblicani non vorranno approvare, anzi già ieri hanno detto che respingeranno le proposte del Presidente. Comunque sia, vi dicevo, il Presidente vuole soprattutto lanciare un messaggio di armonia, gli è convenuto. Si è reso conto, dopo aver fatto l'accordo per il rinnovo dei tagli fiscali, che i suoi indici di gradimento sono saliti e dunque è andato avanti con un annuncio importante che ha fatto venerdì: la pace tra Barack Obama e il mondo degli affari. Questa pace è stata ratificata appunto venerdì in un impianto qui a New York con la nomina di Jeffrey Immelt, amministratore delegato della General Electric, alla guida del nuovo consiglio presidenziale sul lavoro e sulla concorrenza. Il Presidente ha cambiato il nome al vecchio consiglio che si chiamava Economic Recovery Advisory Board ed era guidato da Paul Volcker. Anche qui si vogliono dare due messaggi indiretti. Il primo consiglio doveva occuparsi della crisi, il consiglio di adesso si occuperà della crescita. Il vecchio consiglio era guidato da un vecchio saggio come Paul Volcker, ma un po' squilibrato, diciamo, a svantaggio del business, delle banche, era contro il grande business. In questo modo invece Barack Obama ricuce, vi dicevo, completamente col mondo degli affari e nomina un rappresentante stesso del Corporate America, appunto Jeffrey Immelt, il simbolo stesso dell'istituzione del business americano, alla guida di questo suo consiglio. Let me just begin, if I'm not mistaken, Governor Cuomo, who's going to be an outstanding governor, he tried to give me a Jets hat. I had to refuse it. I had Secret Service confiscate it. But I will say both the Jets and the Bears, I think, are slight underdogs. So we're going to be rooting for the underdogs on Sunday. Sentite il presidente Obama che scherza all'evento di Schenectady, la cittadina dove c'è l'impianto della General Electric. C'è stato questo grande evento, la nuova missione di produzione tecnologica americana, ma si è parlato anche lì di football e Obama dice che il governatore Cuomo dello stato di New York, che sarà un bravissimo governatore, ha cercato di dargli un berretto dei Jets, appunto la squadra di New York che abbiamo visto ha perso ieri, e Obama dice l'ho dovuto rifiutare, ovviamente, perché in finale dall'altra parte, come vi ho detto, c'erano i Chicago Bears, la squadra del presidente che poi ha perso anche lei. Atmosfera dunque molto rilassata a questo evento, e colpisce come in pochi mesi, solo l'estate scorsa, Barack Obama attaccava il business. In pochi mesi, dicevo, il presidente è stato capace di una virata di 180 gradi, e questo lo dice lunga su come si posizionerà verso le elezioni del 2012. Beh, è successo che dopo la batosta di novembre il presidente si è reso conto che senza l'appoggio o quantomeno, diciamo, la neutralità del mondo degli affari, la sua campagna per la rielezione sarebbe stata molto molto difficile. Ed è stato già con il viaggio asiatico, vi ho raccontato durante il viaggio asiatico a partire da Mumbai, che Obama ha ricucito con il business, ha portato con sé in quella missione, ve lo dissi appunto in quelle corrispondenze, ben 200 uomini d'affari americani. Fra questi c'era proprio Jeffrey Immel, tra l'altro, che in quel viaggio ha cominciato a riprendere il dialogo con la Casa Bianca. Piccola parentesi, da Roma alcuni mesi fa, nella primavera dell'anno scorso, Immel aveva criticato direttamente Obama per essere contro il business. Dunque immaginate che differenza c'è nell'umore, nell'atmosfera a Washington tra governo e mondo degli affari. Poi c'è stata la decisione chiave di prendere come suo capo di gabinetto Bill Daley, che è un ex segretario al commercio, legatissimo al mondo degli affari, viene da JP Morgan, ma viene anche dal mondo della politica. La sua famiglia, la famiglia dei Daley, è una grande famiglia politica dell'Illinois, il fratello è il sindaco ancora di Chicago, ma è un sindaco dimissionario. Infine, qualche giorno fa, alla cena di Stato alla Casa Bianca in onore di Hu Jintao, c'erano, oltre a Immelt, che era già lì, c'erano anche altri capi azienda importanti con cui Obama aveva rotto ed ha ricucito: Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, e Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs. Pace fatta dunque in funzione di elezioni importanti, quelle del 2012. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Il 14 febbraio uscirà Waving at the Astronauts, il nuovo album dei Lifeguards Band di Robert Pollard. Sono riuscito a trovare un'anticipazione di una canzone di quest'album, Paradise is Not So Bad. She stumbles down a corridor of drunken madness and falls into a palace in disguise with broken glasses. Stupidity wins the prize. The sight that playing him in there. Humanity scans new heights. Ten clowns look around, no one goes down. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.